Ma la manovra credo che vada nella direzione giusta, credo che sia, non possa essere che il nostro un giudizio positivo quando si parla appunto di cercare di tagliare i costi o di riorganizzare il paese in maniera più moderna, ci trova evidentemente d'accordo. Questo sia sugli argomenti del taglio delle spese, sia sugli argomenti lavoro che, come ho detto, vanno nella direzione corretta che noi abbiamo auspicato, sia nella semplificazione, cioè tutte quelle cose direi di buon senso che i governi che si sono succeduti in passato tutti hanno enunciato e poi con grande fatica non siamo perché al di là della volontà o della buona volontà dei governi precedenti poi non si è riusciti a realizzarli. Io mi auguro che questa sia la volta buona, le maggioranze ci sono, la volontà mi sembra questa volta con grande determinazione c'è e credo che sia condiviso anche dalla grande maggioranza dell'opinione pubblica, quindi spero che sia la volta buona. Quei messaggi per il rilancio della crescita a cui tenevate? Ce ne sono molti, credo che una buona parte appunto delle semplificazioni e delle misure o dei nuovi investimenti, come dicevo prima, in energia, in tutta una serie di cose, sono fatte proprio per cercare di ammodernare il paese e dare quindi, oltre che una spinta economica di rilancio, anche un sistema più efficiente per rendere il paese più moderno e quindi un paese più concorrenziale, quindi aziende più concorrenziali in un paese più concorrenziale. Questo è un po' il senso dell'esposizione che ha fatto oggi il governo.